Spieghiamo com'è la situazione. Circostanze di guerra, sarte, circostanze di guerra, sem 61, circostanze da Wire Records. Te lo dico in quattro quarti giù dall'isola. Casus Belli. Questa è come si intitola la musica che parla di passione, disagio giovanile a rotazione, voglia di rivoluzione. Restiamo nel Mediterraneo, mentre mi dilanio tutti i nervi nel fottuto sotterraneo. In palio non abbiamo nulla, solo l'opportunità di smascherare una realtà fasulla. Possiamo abbatterci sugli Alpi e gli Appennini, pure nel mezzogiorno puntare i nostri mirini. Fake boss atteggiati da fighi, devastiamo piantagioni perché siamo poco fini. SSGA hanno di cost to cost, chi lo sa capirà, quindi mi seguirà. In alto il posto dove non sto nascosto, metti i piedi in terra sarda, ti bruci col fuoco nostro. Tutto a posto, non col cazzo qua è disordine, coperte dalla macchia le brutte storie solite. Spargono sangue, il sole assorbe mentre niente si risolve. C'è chi colpisce a freddo come una revolver. Questa qua è la mia cultura, non può cancellarla con una censura. Noi dannosi per natura, Sardegna, l'hai capito, Eia, Sassari si sveglia. Circostanze di guerra, questa qua è la mia cultura, non puoi cancellarla con una censura. Noi dannosi per natura, Sardegna, l'hai capito, Eia, Sassari insegna. Circostanze di guerra, coppia bellica che rappa a manetta, rime che bucano tipo una leppa. Noi siamo cinghiali, tu ci spari con una doppietta, non ci butti giù, per di più ti si inceppa. Sono cazzi amari, pazzi originali, ragazzi senza pari. Oh yeah, sono razzi sulle strumentali, dimostra quanto vali. E per l'hip hop ancora zero funerali, che già ce n'è di sostanza in Sardegna. Vedo un bel di gente che si pegna e incegna, tutto quanto senza un limite. Io me ne fotto delle critiche, mettiamo in silenzio a chi vuol fare giudice. Parla troppo male, punta con l'indice. Casus Belli morde non dorme, se volete rabbia queste rime ne son colme. Circostanze di guerra, come tra lo Stato e chi fa la vendetta nella sarda terra. Noi testa dura non possiamo darla vita, affrontiamo ogni paura con la stessa grinta. Questa qua è la mia cultura, non puoi cancellarla con una censura. Noi dannosi per natura, Sardegna, l'hai capito, Eia, Sassari si sveglia. Circostanze di guerra, questa qua è la mia cultura, non puoi cancellarla con una censura. Noi dannosi per natura, Sardegna, l'hai capito, Eia, Sassari insegna. Circostanze di guerra, abbiamo quanto basta, esatto tasta, la forza della mia famiglia che non si rilassa. Pensa in che razza di mondo la viviamo, il modo come lo facciamo che ti è totalmente estraneo. Quello che spingiamo noi qua è Rap Riot, rime a tonnellate dentro un cazzo di camion. Targato quattro mori, trasportiamo i pop in tutti i luoghi con i nostri modi, appicciando roghi. Fanculo voi fattori, altro che cartoni, mettiamo su castelli incastrando i nostri mattoni. L'inferno sulla costa, ciò che metto in mostra pesante e che gli è roba che non si sposta. Vi diamo una battossa, che basta roba tosta, cibi la cosca, niente roba losca. Ma il buio delle grotte, la verità nascosta, la Sardegna rappa, non vola più una mosca. Questa qua è la mia cultura, non puoi cancellarla con una censura. Noi dannosi per natura, Sardegna, l'hai capito, Eia, Sassari si sveglia. Circostanze di guerra, questa qua è la mia cultura, non puoi cancellarla con una censura. Noi dannosi per natura, Sardegna, l'hai capito, Eia, Sassari insegna. Circostanze di guerra.